Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. We believe that life arose spontaneously on the earth. Crediamo che la vita sia sorta spontaneamente sulla Terra, quindi deve essere possibile che appaia anche su altri pianeti adatti, dei quali la galassia sembra abbondare. D'altra parte non abbiamo ricevuto visite dagli alieni e tralascio le testimonianze sugli UFO. Perché dovrebbero apparire solo ai creduloni? Malgrado l'intensa ricerca del progetto SETI, non abbiamo ancora captato messaggi dagli alieni, che probabilmente indica l'assenza di civiltà evolute, almeno quanto noi, nel raggio di qualche secolo luce. Quindi stipulare una polizza assicurativa contro il rapimento alieno è una scommessa piuttosto vantaggiosa per gli assicuratori. È questa l'opinione sulla possibilità che esista una vita extraterrestre del grande fisico e cosmologo britannico Stephen Hawking, famoso in particolare per i suoi studi sui buchi neri. Condannato all'immobilità dall'artrofia muscolare progressiva che lo ha portato a vivere su una sedia a rotelle e a non poter nemmeno parlare, Hawking comunica attraverso un sintetizzatore vocale che trasforma in parole quello che lui scrive su un apposito computer. Questo non gli impedisce di portare avanti in maniera estremamente brillante le sue ricerche e di esprimere un'opinione fortemente dubitativa sulla possibilità che nella nostra galassia esistano altre forme di vita intelligente oltre la nostra. L'argomento è indubbiamente fra i più interessanti e dibattuti. L'umanità si interroga da sempre sulla possibilità di non essere da sola nell'universo, con implicazioni di carattere etico e religioso che creano divisioni molto forti. È proprio sulla vita extraterrestre che sta scrivendo in questo momento un giovane giornalista brasiliano. Lui la pensa in maniera opposta rispetto a quanto afferma Hawking. Lui alla vita aliena ci crede come? Anche se siamo solo nel 1970 e l'argomento non è stato ancora approfondito quanto lo è oggi e non è supportato dalla tecnologia di cui possono servirsi gli scienziati moderni, la sua è una convinzione ferrea. Io credo che esistano altre forme di vita al di fuori del nostro pianeta, se non altro perché esistono almeno 4 milioni di pianeti dove può svilupparsi la vita. Questo, quello che sappiamo allo stato attuale. Purtroppo esiste il luogo comune secondo il quale gli alieni hanno l'intenzione di distruggere il nostro mondo. Naturalmente è una credenza del tutto priva di fondamento. Il giovane giornalista che sta scrivendo il suo pensiero sugli alieni in realtà non è un esperto di materie scientifiche, non è un cosmologo e non ha una preparazione specifica sull'argomento. Sta solo raccontando come la pensa lui, un po' come faremmo tutti noi esprimendo la nostra opinione personale. A dire il vero, non è nemmeno un giornalista. Gli hanno chiesto di scrivere un articolo su quell'argomento e lui si è prestato volentieri. Eppure quello che dice colpisce moltissime persone, perché lui, se c'è una cosa che sa davvero fare bene e che gli viene naturale, è scrivere. Il suo nome è Paolo Coelho. Paolo Coelho. Paolo ha solo 23 anni e leggere il proprio nome pubblicato su quella rivista che parla di UFO lo emoziona veramente. Lui ha sempre sognato di fare lo scrittore. La magnifica Rio de Janeiro viene raggiunta da un gruppo di esploratori portoghesi facenti parte della spedizione guidata da Amerigo Vespucci nel gennaio del 1501. Vedendo la baia di Guanabara, gli europei la credono la foce di un fiume. Ecco perché la città viene battezzata Fiume di Gennaio. Le sue meravigliose spiagge, Copacabana e Ipanema, la stupenda statua del Cristo Redentore sul monte Corcovado, l'inconfondibile monte Pan di Zucchero, ma anche le favelas, tutto questo è Rio de Janeiro, che è famosa in tutto il mondo per il suo carnevale e per i tanti e magnifici campioni che ha regalato al mondo del calcio. È in questa meravigliosa città, ricca di storie e di contraddizioni, che nel 1947 nasce Paolo Coelho. La sua è una famiglia benestante di origine portoghese e vive a Botafogo, bellissimo quartiere residenziale della città, in uno splendido appartamento. Suo padre si chiama Pedro, è un ingegnere e ha già deciso. Paolo sarà un avvocato. La mamma, Ligia, è invece una donna molto devota e religiosa. Prega in continuazione. Fin da piccolo Paolo rivela subito un carattere ribelle. Non gli va né di fare l'avvocato, come ha deciso il padre, né tantomeno di pregare sempre, come vorrebbe sua madre. Lui sente invece una vocazione artistica ben precisa. Vuole fare lo scrittore. Paulo Coelho non vuole fare l'avvocato, come ha deciso suo padre, e non vuole pregare sempre come pretende sua madre. Però è troppo giovane per fare di testa sua. Deve piegarsi al volere dei genitori che lo iscrivono alla scuola gesuita di Santo Ignazio. È un istituto molto severo, che impone regole rigide e puntualmente scandite da momenti di preghiera, confessioni, messe e comunioni a tutte le ore. E Paolo è molto infelice. Non può fare niente per cambiare questa situazione, è troppo piccolo. Così cerca una realtà parallela nella quale rifugiarsi. Il delicato, sensibile e accogliente mondo della poesia. Mentre scrive alcuni versi dettati dalla sua giovane età e inesperienza, ma anche da sentimenti forti e profondi, Paolo ha la sensazione di potersi esprimere a pieno, di poter dire lì tra quelle righe la sua verità e manifestare i suoi desideri senza per questo essere mal giudicato o, peggio, punito. Si sa, la poesia è arte e viene considerata un po' a sé. E infatti così è. Anzi, il ragazzo è talmente bravo con le rime che vince addirittura il primo premio in un concorso scolastico. Paolo ne è felicissimo. È la prima volta che qualcuno gli riconosce un merito, invece di criticarlo sempre. Nonostante questo, l'ambiente dei gesuiti non fa decisamente per lui, come racconta anni dopo in una intervista. Dai gesuiti ho imparato una cosa che è molto importante, ma che ho compreso solo più tardi: la disciplina. La disciplina è un insegnamento fondamentale. Ma per il resto, i gesuiti ti forzano a confrontarti con Gesù, con questa figura che è sempre appesa alla croce, inchiodata alla croce, sofferente. Loro ti insegnano questo, ti dicono: lo vedi, quell'uomo? È morto per noi. Invece di insegnarti la gioia della vita di Gesù, che per tanti anni viaggiò, aveva tanti amici, trasformò l'acqua in vino, e non il vino in acqua, Il suo primo miracolo non fu un miracolo politicamente corretto, non fu far vedere un cieco o resuscitare un morto. La madre gli disse: non abbiamo più vino, e lui rispose: ok, lo farò io. Ma a noi non insegnano questo, ci parlano solo della sua sofferenza. Così, quando avevo 15 anni, dopo 7 anni in una scuola gesuita, io persi completamente la mia fede e la riconquistai solo parecchi anni dopo, con un percorso molto duro. Oltre alla poesia, Paolo è affascinato anche dal teatro. Frequenta un gruppo di ragazzi che si dilettano a recitare, che mettono su alcuni spettacoli amatoriali, e lui ne è attratto fortemente. Probabilmente, visto che la sua realtà non lo soddisfa affatto, cerca nella finzione una ragione di gioia. Si rifugia in un mondo virtuale, dove trovare quella felicità che la vita sembra non volergli riservare. Ma quando i genitori lo scoprono, è la fine. Nell'ambiente dell'alta borghesia brasiliana, il teatro è considerato un'attività immorale, fonte di pericolose influenze che possono risultare nefaste per una giovane mente. I genitori di Paolo ne osservano le intemperanze, il suo ribellarsi sempre più fortemente alle regole imposte dalla scuola, così come a quelle in casa. Paolo reagisce in maniera, a loro vedere, del tutto spropositata, quando gli vietano di frequentare gli amici del teatro. Il ragazzo è al colmo dell'infelicità. Non possono fargli questo, non possono impedirgli di vivere quell'unico momento della sua vita che gli dà gioia e gli permette di sopravvivere a tutto il resto. Sta gridando ai suoi che se gli impediscono di recitare, si toglierà la vita. I genitori ne sono sconvolti. A loro vedere il ragazzo non è più sano di mente. E così il padre, d'accordo con un amico medico, lo fa internare addirittura in un manicomio. Quando avevo 17 anni i miei genitori erano fuori di sé. O vuole essere un artista? Magari fra molti anni vorrà essere intervistato, come state facendo voi ora qui. È meglio che lo mettiamo in un istituto di correzione mentale. Lo fecero. Quando avevo 17, poi 18 e infine 19 anni, per 3 volte. E io volevo morire. L'esperienza è traumatizzante per Paolo, come lo sarebbe per chiunque. Il suo ribellarsi è violento, tanto che spesso viene legato al letto, gli viene messa la camicia di forza, gli viene addirittura praticato l'elettroshock. Nessuna di queste pratiche riesce a domare il suo spirito ribelle. È la sua mente che riesce a trovare un bel giorno la soluzione ai suoi problemi. Paolo è legato, rinchiuso tra 4 mura. Tutti coloro che lo circondano nel manicomio pensano che sia pazzo e perfino i suoi genitori lo credono. Sta riflettendo e infine comprende che sono le sue intemperanze che lo hanno portato fin lì a essere prigioniero. In fondo lui è libero di pensarla come vuole, la libertà di azione invece deve conquistarsela e l'unico modo è una buona condotta e la finzione. Inizia quindi ad agire come pensa che gli altri vorrebbero. Si dimostra remissivo, accetta di buon grado le limitazioni che gli vengono imposte, tace sui suoi progetti futuri, accetta perfino che il padre lo iscriva a giurisprudenza. ma non appena può, nel momento in cui riesce a malapena mantenersi da solo recitando, scrivendo poesie e alcuni articoletti per giornali minori, fa quello per cui ha sopportato e finto a lungo: scappa di casa. È finalmente di nuovo se stesso, e anche se deve faticare parecchio, la libertà non ha prezzo. Eppure anni dopo ammetterà di non essere mai riuscito a staccarsi del tutto dalla sua famiglia. Non molto tempo dopo che ero scappato ci ritrovammo tutti d'amore e d'accordo seduti allo stesso tavolo per cena. Questo perché io non sono mai riuscito a vedere nel loro atto una sorta di punizione o di sopraffazione nei miei confronti. Lo interpretai sempre come una grande manifestazione di amore. Mi amavano, volevano proteggermi. Anzi, mia madre in un'occasione mi disse: «Grazie, perché hai perseverato nei tuoi progetti e questo ci ha fatto cambiare idea su tante cose». E io mi sono sentito molto toccato dalle sue parole. L'indipendenza e la libertà danno a Paulo Coelho un senso di euforia mai provato. Ora può fare quello che vuole. È così che in un periodo relativamente breve attraversa tutte le esperienze tipiche della sua generazione e di quegli anni che nel mondo sono simbolo della contestazione giovanile. Siamo proprio a cavallo del 69-70. Paolo diventa estremamente politicizzato, marxista e guerrigliero. Frequenta l'ambiente dei giovani hippie, prova ogni tipo di droga e per mantenersi scrive un po' di tutto. È così che gli capita quella strana richiesta: scrivere un articolo sulla vita extraterrestre. I responsabili del giornale 2001 Magazine sanno che ha una passione fortissima per l'occulto, la magia, l'esoterismo e che si interessa da sempre agli avvistamenti degli UFO che in Brasile sembrano essere frequenti. Lui ha una sua opinione ben precisa al riguardo. Non può essere che solamente la Terra sia abitata. La vita deve essersi per forza sviluppata anche in altri pianeti, altre galassie. Lui ne è convinto e continua a ripetersi: non siamo soli nell'universo. Diceva extraterrestre, portami via. Voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Paolo Coelho scrive dunque un articolo nel quale afferma la sua convinzione che il genere umano non è solo nell'universo, ma che altri mondi sono abitati, che altre forme di vita popolano le galassie intorno alla nostra e che prima o poi gli alieni riusciranno a mettersi in contatto con i terrestri. Un giovane sta leggendo il suo articolo. Sarà che è scritto tremendamente bene, sarà che riesce a essere molto persuasivo nelle sue convinzioni, ma il giovane lettore è preso in maniera totale dalla lettura. Anche lui la pensa così. Gli alieni esistono di sicuro, non è possibile che solo la Terra sia abitata. Ma l'articolo è così convincente che gli lascia un desiderio fortissimo: conoscere l'autore. Non dovrebbe essere molto difficile. Basta chiamare la redazione del giornale e chiedere di quel Paulo Coelho che firma il pezzo. Nel giro di pochi giorni riesce a fissare un appuntamento con lui. Per Coelho è strano avere un fan così agguerrito ed è sinceramente curioso di conoscerlo. Il giovane che gli sta ora di fronte ha un aspetto molto particolare. È un hippie, decisamente stravagante. Un tipo notevole che gli stringe la mano con vigore e si presenta. Il suo nome è Raul Seixas. Raul Seixas. Raul è un tipo divertente, ha più o meno la stessa età di Paolo, ma ha fatto una vita completamente diversa da quella del nostro giornalista dilettante. Avenida 7 de Setembro a Bahia Salvador è una strada molto speciale ed è determinante nella vita di Raul Santos Seixas essere nato proprio lì. La sua famiglia fa parte della media borghesia brasiliana ed è fortemente radicata nelle tradizioni del proprio paese. Il giovanissimo Raul non avrebbe mai avuto modo di conoscere fin da così piccolo una realtà differente. Ma casa sua sta proprio a fianco della sede del Consolato degli Stati Uniti d'America di Salvador e Raul, quando va a giocare a pallone ai giardinetti, incontra i figli dei diplomatici americani. Grazie a queste frequentazioni il ragazzino impara ben presto l'inglese e soprattutto, andando a casa dei suoi amichetti, impara ad amare la musica che ascoltano i loro genitori: Little Richard, Jerry Lee Lewis, ma soprattutto lui, il mitico Elvis Presley. Silvio Passos, esperto di musica brasiliana e curatore di un museo dedicato ai cantanti del suo paese, ricorda la passione sfrenata di Raul Seixas. Non conosceva molto di musica brasiliana. Non conosceva molto della musica brasiliana. Non gli piaceva nemmeno. Ma la musica americana, beh, quella la conosceva tutta e benissimo. Lui sembrava più uno statunitense che non un brasiliano. Raul sta ascoltando quella musica così particolare, così incredibilmente diversa dalla musica brasiliana. E soprattutto lo affascina Elvis Presley. Non ha mai sentito nessuno cantare così, mai una voce così calda, così morbida e modulata. sta pensando che il grande cantante di rock and roll non ha uguali al mondo. Ci pensa giorno e notte e infine decide. Anche lui sarà un cantante e un musicista. Ha soltanto 12 anni quando crea la sua band e la chiama Raulcito e Os Panteras, Piccolo Raul e le Pantere. Anche se sono poco più che bambini, Raul e le Pantere hanno un successo notevole, anche perché cantano tutte le cover di Elvis e dei Beatles che ancora nessuno a Bahia conosce. E poi sono i primi che si fanno crescere i capelli lunghi, si può dire che sono i primi capelloni brasiliani. A metà degli anni 60, Os Panteras è considerato il gruppo rock più famoso della regione di Salvador, a cui va indubbiamente riconosciuto il merito di avere portato Elvis in Brasile. Sono così amati che diventano il gruppo fisso di apertura dei concerti di grandi cantanti come il famosissimo Roberto Carlos o Shay Adriani. La cantante brasiliana Vanderlei ricorda con affetto gli esordi di Seixas. Era una persona che non potevi non amare, proprio per come era lui, a parte come cantava. Era una persona integra, forte, coraggiosa e altruista. Era un sognatore. Un sognatore, ma forse è troppo giovane. Così Raul si fa convincere a trasferirsi con la sua band a Rio, dove un produttore poco esperto lo spinge a coprodurre un album. Ma senza alcuna pubblicità e supporto di marketing, il disco è un flop sotto tutti i punti di vista. Raul ci ha investito tutti i suoi guadagni, quelli degli Os Panteras, e i ragazzi della sua band sono arrabbiatissimi, tanto che decidono di abbandonarlo e di sciogliere la band. Raul Seixas è disperato, chiuso in camera sua a Salvador, non vuole vedere nessuno. È tornato a casa con la coda tra le gambe. Quello che doveva essere il successo della sua vita si è trasformato in un disastro totale su tutti i fronti. Non ha più la sua band, non ha quasi più risparmi. E lui stesso a ricordare alcuni anni dopo quel momento buio della sua vita. Me ne stavo chiuso in camera mia tutto il giorno, con le tapparelle abbassate e una lucina fioca accesa sul comodino. Leggevo libri di filosofia per ore e ore. Alla fine mi rovinai la vista. Mi facevano male gli occhi, non potevo più leggere. Allora mi comprai una moto e andai in giro per Salvador a scorrazzare come un pazzo. Raul si deve mantenere. Sa bene l'inglese, quindi dà lezioni in una scuola, ma poi ha un colpo di fortuna. Alcuni amici musicisti fanno il suo nome alla CBS, la Columbia Broadcasting System, noto network televisivo. Raul è molto in gamba, è un musicista valido e tutti lo sanno. Per questo la CBS lo assume come direttore creativo dell'emittente. È proprio in questo periodo che il giovane si trova per le mani la rivista 2001 Magazine, dove è pubblicato l'articolo di Paulo Coelho sulla vita extraterrestre. Raul è interessatissimo a tutto quello che è mistero, esoterismo, magia, e l'articolo di Coelho lo intriga a tal punto che decide di conoscerlo. E ora i due ragazzi sono uno di fronte all'altro. Si capisce che hanno gli stessi interessi. Anche se Paolo adora scrivere e Raul è un musicista, gli argomenti che li affascinano sono gli stessi. E poi sono due ribelli, contrari al regime militare del generale Emilio Medici che governa il Brasile. Due anarchici. Bastano poche ore passate insieme per capire che la loro sarà una grande amicizia e che insieme faranno grandi cose. Beh, uno scrive poesie, l'altro compone musica. Niente di più naturale per loro che mettere in cantiere un bel po' di canzoni, attraverso le quali esprimere anche la loro ideologia politica di sinistra. La loro collaborazione dà i suoi frutti in breve tempo. Nasce il primo album, Krieg Ha Bandolo. Il titolo fa riferimento al grido di guerra di Tarzan, che significa «Attenti, il nemico è vicino», ed è un modo furbo per dire quello che pensano senza venire censurati. Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída. É hora de acordar pra ver o galo cantar, pro mundo inteiro escutar. Baby, a história é a mesma, aprendi na quaresma. Depois do carnaval, a carne é algo mortal, com multa de avançar sinal. Destini incrociati. Pace, tolleranza, verità, saluto ad ogni punta del triangolo, rispetto per l'ordine, a chiunque possano interessare, congratulazioni e benessere. Fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge. Fai ciò che vuoi. In questa breve frase è contenuta l'essenza della filosofia di Aleister Crowley, famoso pensatore, poeta e occultista britannico di fine Ottocento. Ritenuto un'indiscussa autorità nel mondo della magia cerimoniale contemporanea, in quanto uno dei principali codificatori e divulgatori delle scienze occulte del XX secolo, nel passato Crowley è spesso definito un satanista a causa del suo comportamento provocatorio e fuori dagli schemi. In realtà con il satanismo non ha nulla a che spartire, dichiarandosi totalmente contrario alle pratiche deviate verso il lato oscuro e asserendo che il diavolo non esiste e che non c'è altro dio che l'uomo. Negli ambienti della musica rock sono molti i divi che esprimono simpatia per Aleister Crowley. I Beatles lo inseriscono sulla copertina del loro storico disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Il chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, diventa uno dei maggiori collezionisti mondiali di materiale crowleyano ed acquista addirittura la sua dimora, la famosa Boleskine House, che si trova sulla riva orientale del lago di Loch Ness, in Scozia, famoso per il presunto mostro. Ozzy Osbourne e David Bowie lo citano nelle loro canzoni e Mick Jagger si dichiara un suo appassionato. Paulo Coelho, giovane scrittore brasiliano da sempre attratto da tutto ciò che è occulto, magia, mistero, si accosta molto presto agli scritti di Crowley e ne viene notevolmente influenzato. Mi riconobbi pienamente nelle teorie di Crowley. Ero interessato all'occulto, al mondo immateriale, alle teorie della pietra filosofale. Mi affascinavano le sue opinioni sulla vita extraterrestre, ma soprattutto per me, che mi ero allontanato dalla religione tradizionale per via della rigidità che avevo subito dai gesuiti, era un modo alternativo per nutrire il mio spirito. Le teorie di Crowley influenzano in maniera determinante Paulo Coelho, che si avvicina al mondo della magia e dell'occulto, ma anche alle teorie sull'esistenza degli extraterrestri. Fermamente convinto che anche altri pianeti e altre galassie siano abitati, Coelho scrive un articolo molto convincente sulla rivista 2001 Magazine. La sua opinione è così ben argomentata che un giovane musicista di Salvador, Raul Seixas, decide addirittura di conoscerlo. Il loro incontro è determinante per entrambi. Hanno gli stessi gusti, le stesse passioni. E dato che uno scrive poesie e l'altro compone musica, è per loro naturale dare il via a una collaborazione molto prolifica, scrivendo insieme bellissime canzoni. Dopo il loro primo album, Krieg Ha Bandolo, Paulo e Raul scrivono moltissimi altri pezzi di successo. Ma sicuramente il disco che li consacra arriva nel 1974 ed è Gita, che vende addirittura 600.000 copie, un'enormità per il Brasile di quegli anni, e trasforma Raul Seixas in un divo della musica brasiliana. E se per il musicista si tratta della consacrazione di una sua aspirazione, qualcosa che persegue da tutta la sua esistenza, per Paulo Coelho è invece una novità che gli fa comprendere appieno il valore universale della musica. In una intervista recente, lo scrittore analizza proprio la differenza che esiste fra musica e letteratura. Yes, and the music is this universal language. La musica è la lingua universale. Tu puoi sentire della fantastica musica bulgara. Voi parlate bulgaro? No, nemmeno io. Eppure posso ascoltarla e apprezzarla moltissimo. Posso trarne grandi emozioni. Questo non accade con i libri. I libri vanno tradotti nelle diverse lingue. La musica invece parla direttamente con la tua anima e anche con il corpo, perché anima e corpo non sono separati. Il corpo è la manifestazione fisica dell'anima e quando tu ascolti la musica ti suona qualcosa dentro che ti tocca, ti coinvolge. Ad esempio io non posso scrivere mentre ascolto la musica, sarebbe impossibile. La musica esiste in ogni civiltà, può essere anche solo la percussione di un tamburo, ma c'è. Non esiste umanità senza musica. I temi che Paulo e Raul affrontano nelle loro canzoni sono quelli dell'occulto e della politica. Sono degli hippie, anarchici, contrari al potere repressivo dei militari che governano il Brasile. Sono talmente convinti della loro ideologia che fondano addirittura un'organizzazione anticapitalista e anarchica che si rifà alla filosofia di Aleister Crowley del faccio che vuoi e la chiamano società alternativa. Esperar Papai Noel ou discutir Carlos. Società Alternativa è un'organizzazione che vuole contrastare il governo repressivo dei militari che tiene il Brasile in uno stato di costrizione e mancanza di libertà. Paulo Coelho e Raul Seixas, amici per la pelle e collaboratori di grande successo, artisti che riescono a dare una vera svolta al rock nel loro paese, la fondano in quanto sono spiriti liberi, credono nell'anarchia e nella libertà individuale. Stanno proprio scrivendo una sorta di decalogo del loro movimento, il manifesto del Kiga, quando nella sede dell'associazione fa irruzione la polizia. I due amici si guardano, sanno perfettamente che non stanno per affrontare qualcosa di piacevole. La polizia brasiliana non è certo un organo accondiscendente. Ha un grande potere conferitogli dal governo militare che non ammette ideologie diverse, né tantomeno associazioni di stampo marxista, comunista o anarchico. Mentre vengono arrestati, Paulo Coelho e Raul Seixas cercano di rassicurarsi a vicenda. In fondo loro non hanno fatto nulla di male. La loro è un'associazione innocua, libera. E poi sono due artisti famosi. Non è pensabile che chi che sia possa far loro del male. Purtroppo però si sbagliano. Ci separarono subito e ci portarono in carcere. Fu orribile. Ci tennero dentro 2 giorni, ma posso assicurare che furono una vita. Torturarono sia me che Paolo. Ci picchiarono, restammo senza mangiare e senza dormire, interrogati in continuazione con la luce fissa negli occhi. Ma a me andò meglio perché quando fui uscito partii immediatamente per gli Stati Uniti insieme a mia moglie, che è americana. Paolo rimase a Rio e fu la sua condanna. Paolo Coelho esce dal carcere. Sono stati 2 giorni terribili, senza cibo o acqua, percosso, interrogato e senza sapere nulla dell'amico Raul. Non appena rilasciato, il suo primo pensiero è cercarlo. Quando lo raggiunge a casa sua e lo riabbraccia, per entrambi è un momento di estrema commozione. In realtà nessuno dei due pensava che la polizia avrebbe avuto il coraggio di trattarli in quel modo, ma purtroppo si sbagliavano. Paolo nota che Raul ha tutta la casa sottosopra. Sta facendo le valigie. L'amico gli comunica che ha deciso di lasciare il Brasile per un po'. Intende trasferirsi negli Stati Uniti a casa dei parenti di sua moglie. Per Paolo è un grosso dispiacere. Lui a Raul è sinceramente affezionato e anche se la loro collaborazione artistica può continuare tranquillamente anche a distanza, sa che l'amico gli mancherà. Ma non è solo questo. La sua anima ribelle gli sta dicendo che in fondo Raul sta scappando. È vero che non siamo tutti eroi, si sta dicendo Paolo, ma è anche vero che questa fuga è un modo per dare ragione ai militari, alla repressione del governo, è un abbandonare la lotta. Ma comprende anche che non tutti reagiscono allo stesso modo. Le pressioni che hanno subito in carcere spaventano talmente Raul da indurlo a scappare. Per Paolo la faccenda è diversa, anche se sta per capitare qualcosa di terribile. 2 giorni dopo che il mio amico fraterno Raul César era partito per gli States, stavo camminando per la strada quando fui avvicinato da un gruppo di tipi loschi. Mi dissero che li dovevo seguire e quando mi mostrai reticente mi presero di peso e mi fecero entrare nella loro macchina. Erano della polizia segreta del governo militare. Scoprì poi che ero considerato l'ideologo della società alternativa, mentre Raul lo credevano solo un mio seguace. Per questo lui lo avevano lasciato partire. Io venni portato in un centro militare creato appositamente per i dissidenti del regime. Lì entravi, ma non sapevi se saresti uscito mai, e seppure uscivi in che condizioni ti rispedivano a casa. Preferisco non raccontare tutto quello che mi fecero, dico solo che capì subito che se non mi inventavo qualcosa mi avrebbero ucciso e prima avrei sofferto come un cane. Paolo ha un'intuizione forse anche dettata dalla sua grande sensibilità. Comprende che un ideologo è considerato pericoloso solo se è sano di mente. Ma se lui riesce a insinuare nei suoi aguzzini il dubbio che sia pazzo, forse può salvarsi. Grazie al cielo ha parecchia esperienza di matti. È stato ricoverato per ben 3 volte in manicomio da ragazzo, quindi sa come fare. E poi vuole salvarsi a tutti i costi. E questo gli dà una determinazione che descriverà anni dopo nel suo libro L'Alchimista. Se tu vuoi veramente qualcosa, allora l'intero universo cospirerà affinché tu la ottenga. Questo significa che quando tu immetti le tue vibrazioni, le tue energie, chiamale come vuoi, le espandi nell'aria, esse toccano l'anima del mondo. Ogni cosa è fatta di atomi e tutto è in collegamento e ogni nostra azione interferisce con la vita degli altri. Paolo Coelho riesce a convincere i suoi torturatori che non è sano di mente. I suoi vaneggiamenti vengono presi per buoni e infine lo scrittore viene giudicato non pericoloso. Una volta fuori dal carcere, però, l'esperienza che sia lui sia l'amico e collaboratore Raul Seixas hanno passato lascia un segno indelebile. Sicuramente le ferite dell'anima fanno molta più fatica a guarire di quelle che i torturatori hanno lasciato sui loro corpi. I due amici decidono di seguire il loro destino su strade meno pericolose. Raul fa ritorno in Brasile, dove riprende la sua collaborazione con Paulo, dando vita a una serie di canzoni meravigliose, che segnano indelebilmente il panorama musicale brasiliano degli anni tra il 75 e l'85. Nel 1979 Paulo Coelho ritrova una sua amica di molti anni prima, Cristina Oticica, una pittrice di grande sensibilità che diviene sua moglie l'anno dopo e che è sicuramente il grande amore della sua vita. Con lei lo scrittore inizia una serie di viaggi intorno al mondo che rappresentano l'inizio della sua metamorfosi professionale. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia di una profonda amicizia, quella tra il grande scrittore brasiliano Paulo Coelho e il musicista Raul Seixas, famosissimo in tutto il Brasile, al quale va il merito di aver portato nel paese il rock and roll e avere fatto conoscere in particolar modo Elvis Presley negli anni 60. Paulo e Raul si incontrano quando sono poco più che ventenni, complice un articolo sull'esistenza degli extraterrestri che lo scrittore pubblica sulla rivista 2001 Magazine e che il musicista trova talmente interessante da decidere di incontrare l'autore. Da quel momento le loro vite svoltano in maniera decisiva. Paulo e Raul iniziano a scrivere canzoni bellissime che in breve tempo entrano nella hit parade brasiliana e trasformano i due in veri e propri idoli, seguitissimi da un pubblico sempre maggiore. La loro amicizia non è fatta solo di musica. I due hanno lo stesso modo di concepire la vita, lo stesso interesse verso tutto quanto è magia, occulto, mistero e soprattutto sono simpatizzanti di sinistra e anarchici. Per questo vengono arrestati dal regime militare che governa il Brasile e che non tollera ideologie alternative alla propria. È un'esperienza che li traumatizza fortemente e li fa riflettere. Dopo un periodo di esilio di Raul negli Stati Uniti, i due amici ritornano a scrivere insieme, decidendo di essere più cauti e utilizzare meglio la libertà che è concessa agli artisti. Paulo sta proprio dicendo questo a Raul. Le stesse cose si possono dire in tante maniere. Non è necessario essere espliciti per forza, possiamo trovare delle metafore. In fondo anche Gesù portava avanti il proprio insegnamento attraverso le parabole. Abbandonato l'attivismo politico esplicito, i due amici scrivono una serie di canzoni stupende. Sono nato 10.000 anni fa, un uomo, le miniere di Re Salomone. Raul Seixas ha un tale seguito che addirittura parecchi suoi fan sfruttano una legge brasiliana che consente di poter adottare un cognome in più a propria scelta per chiamarsi come lui. Nonostante questo però, le esperienze passate, il trauma del carcere e delle torture segna in maniera indelebile Paulo e Raul, anche se le loro reazioni sono molto differenti. Il musicista inizia a soffrire di depressione, divorzia dalla moglie, diventa ben presto un alcolizzato e lentamente scivola in una spirale negativa che lo porta a non riuscire nemmeno più a suonare e cantare in pubblico. Paulo Coelho è molto triste per il suo amico e compagno di lavoro. Non sa come fare per aiutarlo, anche perché pure lui sta vivendo un periodo di grande difficoltà. Ma invece di gettarsi nelle droghe, nell'alcol, in rapporti sbagliati come fa Raul, Paulo reagisce diversamente. La sua si trasforma in una vera e propria crisi mistica che lo porta nuovamente verso la religione. Non è che ho visto Silvio Santos sorrindo quel riso franco e puro per un film di terror. Com'è che io posso ler se io non consigo concentrar minha atenção? Se o que mi preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção. Paulo Coelho sta vivendo una sorta di crisi mistica. Si è allontanato dalla religione da giovane, ma poi le esperienze del carcere e della tortura in quanto anarchico nel Brasile degli anni 70, governato da un regime militare di destra, lo avvicinano nuovamente alla religione. E per meglio comprendere quello che sente e quello che sta vivendo, che intraprende un'avventura molto particolare in compagnia della moglie Cristina, il cammino di Santiago di Compostela. Il lungo percorso che i pellegrini compiono fin dal Medioevo attraverso la Francia e la Spagna per raggiungere il santuario di Santiago di Compostela, dove si dice si trovi la tomba dell'apostolo Giacomo, rappresenta per Paolo un cammino all'interno di se stesso, alla ricerca della propria misticità. È il 1986 e lui si trova alla soglia dei 40 anni. L'esperienza è talmente forte che Paolo decide di scrivere una sorta di diario del suo viaggio. Nasce così Il Cammino di Santiago, il primo libro di Paolo Coelho. Quest'opera ha un discreto successo di pubblico, oltre ad avere il merito di riaccendere l'interesse sul pellegrinaggio a Compostela, che da quel momento registra un aumento vertiginoso di fedeli che decidono di percorrerlo. Quando arrivai a Santiago, avevo la sensazione che la mia vita non avesse più un senso, un significato. Mi domandai, cos'è che voglio fare? Io voglio essere uno scrittore. Fino a quel momento, e avevo 39 anni, non ci avevo mai provato sul serio. Allora pensai, ma perché non realizzare i miei sogni, invece di rimandare sempre? Forte del successo de Il Cammino di Santiago, Paolo va a parlare con Raul. Ha deciso di diventare uno scrittore e vuole comunicarlo al suo amico e collega. Lo trova in uno stato di debilitazione fisica drammatica, depresso, alcolizzato, affetto da una gravissima forma di pancreatite e dal diabete. Nonostante sia malato, Raul vede però negli occhi dell'amico la felicità. Comprende che Paolo ha trovato la sua strada, che sia quella del misticismo, che sia quella della scrittura. Gli pare una persona sulla via della guarigione spirituale. Quella guarigione che lui proprio non riesce a raggiungere, anzi, in breve tempo, le sue condizioni si aggravano ulteriormente e lo portano alla morte. È il 1989 e Paolo sta scrivendo il suo secondo romanzo, L'Alchimista. La sua strada è ormai tracciata. Il suo amico Raul, il suo compagno di lavoro con il quale ha realizzato canzoni bellissime, con il quale ha diviso gli onori del successo ma anche le sofferenze del carcere, non c'è più. Paolo non scriverà mai più canzoni, oramai è uno scrittore. L'Alchimista ha un successo strepitoso. Viene tradotto in 56 lingue e vende oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo, divenendo il libro in lingua portoghese più venduto nella storia ed entrando addirittura nel Guinness dei primati. Paolo Coelho diviene in breve lo scrittore di lingua portoghese più famoso del mondo e uno degli artisti più considerati dalla critica. In una recente intervista, scherzando sulla sua fama ormai stellare, Coelho racconta un divertente episodio che vede protagonista sua madre. Mi ricordo una volta mia madre mi disse: «Ma la mia parrucchiera è una tua amica?» Allora le risposi di no, che non la conoscevo. «E lei sta leggendo un tuo libro. Perché lo legge se non siete amici? Mia madre è convinta tuttora che solo i miei amici possano leggere i miei libri.» Io che già andai per i quattro canti del mondo procurando, foi justamente in un sogno che ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado.